wash my pain away. Now I feel at ease. Mother, I finally see you. You take my breath away. Feel like a memory. Set me free. Tell them I love them, I love them. All of the things that you set me free. God, let them breathe. Just set me free. God, let them breathe. Once when you set me free. God, let them breathe. Oh, ah, God, let them breathe. God, let them breathe. God, let them breathe. Sono Raja del Gazza Freestyle, un collettivo che esiste dal 2014 e opera in collaborazione con i compagni e le compagne della Striscia di Gaza. Da ottobre, come moltissimi, moltissime di voi, il nostro fiato è sospeso perché amici e amiche di Gaza si trovano sotto costante bombardamento. Le video call che facevamo per organizzare la Casa Internazionale delle Donne si sono trasformate in messaggi silenziosi. Molte delle donne del Comitato per la costruzione della casa hanno smesso di rispondere. Ci sono donne che in tutta Gaza, in tutta la Palestina, subiscono la violenza patriarcale e coloniale. Ci sono detenute e detenuti che vengono lasciati a morire per anni dentro le carceri sioniste. Vogliamo ricordare Khalida Jarrar, arrestata poco fa per l'ennesima volta, oppure Ahed Tamimi, diventata un'icona a soli 17 anni, o Mariam Abudakka, nostra amica e sorella, che per questo corteo ha voluto lasciarci un messaggio. Inviatoci mentre si trova in esilio in Egitto, perché quando sono iniziati i bombardamenti a Gaza si trovava in Francia e il regime coloniale francese ha deciso di arrestarla e deportarla nonostante i suoi 73 anni e il piano di presentazione del suo libro. Lo stesso giorno del suo arresto, Israele ha ammazzato 66 membri della sua famiglia e lei, donna, compagna, storica femminista di Gaza e per la Palestina molto importante, è rimasta l'unica della sua famiglia. Ci ha donato queste parole, voglio leggerle velocemente. Ogni anno le donne della Palestina, le donne del mondo sono libere. Quest'anno, l'8 marzo, nella giornata internazionale della donna, le donne palestinesi stanno vivendo una guerra di genocidio contro il loro popolo e i loro figli, che non ha paralleli nella storia. Oggi l'umanità in generale, le donne in particolare, celebrano la storia delle donne in lotta, che hanno segnato una pagina di gloria nella storia per i diritti delle donne, di lavoratrici e dei lavoratori e per la loro uguaglianza nel lavoro e nelle questioni sociali. Per 76 anni le donne palestinesi sono state soggette ai più orribili massacri, sfollamenti, sradicamenti, arresti e deportazioni dalla loro terra a causa dell'occupazione razzista, sionista e del suo comportamento costante in ripetute aggressioni come una delle sue caratteristiche autentiche. Nell'ultimo colonialismo del mondo, nel XXI secolo, con l'appoggio dell'imperialismo occidentale guidato dagli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo qui vicino il consolato, la testa del serpente, ma con la piena partecipazione alla guerra di genocidio contro il popolo palestinese, la donna è al centro. Ciò è confermato dalla guerra genocida a Gaza, dove il 70% di morti sono donne e bambini. 12.000 donne morte, 10.000 bambini assassinati. L'occupazione criminale non si è accontentata di uccidere con bombe e proiettili vietati a livello internazionale, ma sta anche utilizzando una guerra di fame e ha privato la popolazione di cibo, medicine, acqua ed elettricità. Chi non muore sotto i proiettili verrà lasciato morire di fame o di malattia. Pertanto affermiamo in questo particolare momento che la brutale aggressione contro Gaza ha rivelato la falsità delle leggi internazionali, dei loro doppi standard riguardando i diritti dei bambini, i diritti delle donne, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Questo non ha luogo e non ha alcun effetto in Palestina. La guerra di genocidio contro il popolo palestinese ha rivelato la fragilità del sistema internazionale e la sua incapacità di fermare questo olocausto, proteggere i civili e attuare le leggi da esso legiferate. La guerra genocidia è continuata con la politica della terra bruciata contro gli esseri umani. 5 mesi di genocidio e tentativi di liquidare la causa palestinese è spezzare la volontà del nostro popolo. Ma con la volontà e la tenacia della resistenza e dell'incubatrice popolare, di cui le donne sono una parte essenziale, salda e radicata nel territorio, rifiuteremo l'occupazione, lo sfollamento e l'insediamento dei coloni. Noi, donne palestinesi, salutiamo tutte le donne palestinesi e tutte le donne arabe in tutto il mondo e attendiamo con impazienza il loro sincero sostegno alle donne palestinesi a livello politico, culturale, economico, sociale, a tutti i livelli, per fermare la guerra del genocidio, porre fine all'occupazione, liberare le nostre prigioniere e prigionieri eroici e ricostruire Gaza. Vogliamo il riconoscimento dello Stato indipendente di Palestina con Gerusalemme come capitale e il ritorno di tutti i profughi e le profughe sparse per il mondo. Insieme per proteggere i diritti umani attraverso un ordine mondiale giusto, ritenendo il nemico sionista responsabile dei suoi crimini. Libertà per i detenuti e le detenute e una pronta guarigione ai feriti. La vittoria apparterrà sicuramente al nostro popolo. Vergogna e disgrazia apparterranno all'occupante sionista. Un saluto al popolo italiano, ci dice Mariam Abudakka. Al popolo italiano che è amichevole e solidale con il popolo palestinese oppresso. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey! Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type, point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. La vita a causa delle bombe e della fame che Israele utilizza come arma genocida. 2/3 delle oltre 30.000 persone uccise da Israele negli ultimi 5 mesi sono donne e bambini. Oggi più che mai, mentre si consuma un tentativo brutale e senza precedenti di genocidio sul nostro popolo, chi vuole lottare con noi deve ricordare il vero senso del femminismo, quello rivoluzionario. Ribadiamo con fermezza il nostro totale supporto alla resistenza con ogni mezzo necessario. attese e compagne delle donne che l'hanno animata. Grazie al loro esempio, ai loro insegnamenti, sappiamo bene che il femminismo è lotta, è sovversione dello status quo. Anche dalla diaspora riconosciamo questo significato, senza il quale il femminismo si riduce a un debole esercizio accademico distaccato dalla realtà del mondo. Ed è per questo che dalla diaspora sappiamo in cosa si deve tradurre la nostra lotta femminista. Noi, a chi lotta insieme a noi, bisogna fermare il genocidio. Il femminismo palestinese rappresenta oggi una guida per tutte le lotte femministe anticoloniali internazionali. La lotta delle nostre compagne palestinesi in patria e nell'esilio è la lotta per la liberazione della terra, del corpo del patriarcato, del colonialismo e del capitalismo. La lotta delle donne palestinesi ci ha insegnato questo: la nostra liberazione in quanto donne e la liberazione della Palestina devono essere comprese come una causa coincidente, che il femminismo senza anticolonialismo è solo una spalla dell'imperialismo e che il nostro primo obiettivo e orizzonte è la liberazione dal fiume al mare. Rifiutiamo il femminismo liberale bianco che ci vede come donne da salvare, sottomesse alla nostra cultura, considerata retrograda e primitiva dallo sguardo occidentale. Supportiamo la lotta di tutte le nostre compagne del sud globale, di ieri, di oggi, spinte dalla volontà di autodeterminazione e libertà. Rifiutiamo categoricamente ogni paragone con l'esperienza delle donne israeliane. Donne colonizzate e colonizzatrici non godono degli stessi diritti e non possono assolutamente essere trattate sullo stesso livello. Non possono essere trattate come se l'appartenenza di genere appiattisse tutti gli altri fattori che costruiscono non solo l'identità, ma anche la posizionalità di ognuna. Rifiutiamo l'utilizzo di pinkwashing, rainbowwashing da parte del sistema coloniale sionista come tecnica per legittimarsi e deviare l'attenzione dalle sue politiche e azioni genocidiarie, per rendere accettate dallo sguardo occidentale. L'8 marzo scendiamo in piazza per gridare con le nostre compagne: fermiamo il genocidio! Palestina libera! Palestina libera! Ed appunto perché oggi è l'8 marzo ed è una giornata di lotta e non di festa, stamattina abbiamo fatto un'azione con i sindacati dove siamo andati alla sede di Leonardo in provincia di Novara, dove a pochi chilometri da qui si costruiscono gli strumenti e le armi per fare la guerra alle donne e ai bambini. Sucedió, señores. mia! Della superpazia bianca! Non è altro che questa statua di merda dedicata a quel fascista schifoso! L'abbiamo già detto, il movimento antirazzista e transfemminista l'ha già spiegato a questa città, ha già mostrato e svelato con una vernice e con qualche azione, niente di grave. La precarietà, i licenziamenti, le morti sul lavoro, le molestie sui luoghi di lavoro, il part-time forzato, i turni non programmabili, il mobbing, gli stipendi, le pensioni basse colpiscono di più le donne e le soggettività già marginalizzate, come le persone razzializzate, le persone trans, le persone disabili e le persone povere. Puntiamo il dito anche contro gli enti e i servizi pubblici che appaltano, subappaltano alle cooperative sociali, alimentando il lavoro povero, femminilizzato e razzializzato. Puntiamo il dito contro i vertici dei sindacati confederali, contro i vertici della CGIL che hanno firmato contratti nazionali a 2,75 euro l'ora netti. Puntiamo il dito contro Landini che per 8 anni ha ostacolato lo sciopero dell'8 marzo. Oggi scioperiamo per difendere il diritto di sciopero che è sotto attacco dalle precettazioni di questo governo. Vogliamo costruire reti di supporto e solleranza che ci permettano di autodeterminarci ovunque, sul lavoro e fuori. Perché non importa quanto lavori, non sarà mai abbastanza per emanciparti in questo sistema. Perché nasciamo, cresciamo e viviamo immersi in un sistema che dà valore alle persone solo in base al loro conto in banca e ai privilegi di quale godono. Mentre il potere economico rimane sempre in mano a pochi che lo usano per avvantaggiarsi delle diseguaglianze. Oggi scioperiamo perché oltre al lavoro salariato c'è una forma di lavoro non riconosciuta, non retribuita, che però regge l'intero sistema, il lavoro di cura e riproduttivo. Le donne e le soggettività femminilizzate vengono investite dalla responsabilità morale di occuparsi di tutto, oltre al lavoro retribuito anche la casa, il lavoro domestico, la famiglia, la cura delle persone con disabilità, la cura delle persone anziane e delle figlie. Riconoscimento del lavoro di cura. Il lavoro di cura non è un fatto privato che pesa sulle spalle solo di alcune. Inclusivi, utili e dignitosi. Basta licenziamenti, emansionamenti, se diventi mamma e basta avere zero possibilità di lavoro se sei una persona trans. Basta pinkwashing, greenwashing, greenwashing e tutto il loro fumo negli occhi. Noi oggi incrociamo le braccia e le incroceremo tutte le volte che verremo sfruttate e invisibilizzate, perché se ci fermiamo noi si ferma il mondo. Violenza sulle donne si può fermare. 8 marzo, sciopero globale. Violenza sulle donne si può fermare. 8 marzo, sciopero globale. 8 Cosandrena passasse da farmaco di classe A a farmaco di classe C. Per chi ancora non lo sapesse, Sandrena è la forma più prescritta commerciale di estrogeni in gel, prescritta nella stragrande maggioranza delle terapie ormonali femminilizzanti, soprattutto per chi sta iniziando il percorso ormonale. Il fatto che Sandrena passi alla classe di farmaci C significa che il prezzo commerciale aumenta più del doppio e che non è più possibile ottenere un rimborso nemmeno parziale di questi farmaci. Ci disgusta come queste misure, prese da politici e capitalisti, si legittimino consultando commissioni tecnico-scientifiche composte solamente da persone cis, come ancora una volta le persone trans non abbiano alcun diritto di parola nel dibattito sul nostro diritto alle cure, all'autodeterminazione e sulla nostra volontà di vivere. Come se gli ostacoli non ce ne fossero già abbastanza, questo decreto è l'ennesimo bastone tra le ruote che le persone trans devono affrontare nel proprio quotidiano, l'ennesima presa di posizione che esclude chi non gode di privilegio economico, che cerca di narrare la terapia ormonale come un costoso capriccio, invece che come un diritto fondamentale e salvavita. Chiediamo a tutti di diffondere il più possibile questa notizia, che ovviamente non è stata riportata da nessuna testata giornalistica, e a supportare le persone trans che gravitano intorno a noi e non solo. Crediamo nel mutualismo, motivo per cui invitiamo tutte le persone trans interessate a parlare con noi e con tutte le AME possibili, per scambiarci informazioni su come aggirare questo sistema nemico. Vogliamo sottolineare che, per quanto complesso, esiste ancora la possibilità di ottenere la terapia ormonale gratuitamente attraverso lo Stato, se siete disposte ad aspettare circa 12 secoli. Un'ultima comunicazione di servizio. Uno dei progetti che portiamo avanti è la Cassa T, un fondo di mutuo aiuto per persone trans, a cui si può accedere liberamente senza necessità di specificare il motivo della richiesta. La Cassa T non è una forma di beneficenza, ma uno strumento orizzontale. Tutti possono raccogliere fondi per la cassa, tutti siamo responsabili che ci siano soldi a disposizione di chi lo necessita. Se voleste fare una donazione, organizzare un benefit o chiederci informazioni su ormoni o il contributo della Cassa T, scriveteci a infomarciona@inventati.org. Contro la transfobia statale, mutuo aiuto queer e lotta al capitale. Buon l'8 marzo a tutti! Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Il corpo è mio, decido io. Por quererte, il corpo è mio, por amarte, decido io. Il corpo è mio, decido io. Ay, mi vida, nunca. Pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Thank you. non farvi sentire attaccati, nonostante una donna muoia di femminicidio ogni due giorni. Scusateci se non riusciamo più a tollerare che la violenza di genere venga sminuita e invisibilizzata e compaia nei giornali solo come cronaca morbosa e articoli gonfi di sensazionalismo. Scusateci se non possiamo più sentire che il patriarcato è un sistema del passato, quando le nostre vite sono segnate dall'oppressione. Scusateci se non riusciamo più a tollerare che transicidi e puttanocidi vengano considerate notizie di serie Z da una società bigotta, misogina e moralista. Se i vostri discorsi sono non tutti gli uomini e io non sono così, siete parte del problema. La cultura patriarcale si nutre della deresponsabilizzazione, si rinforza con i vostri "io non lo farei mai", è sorretta dalla colpevolizzazione delle sopravvissute alla violenza, dalla cultura del possesso, dalla mostrificazione degli uomini violenti, che non sono altro che figli sani della cultura in cui siamo immersi. Anziché puntare il dito lontano, è necessario e urgente inquadrare la violenza maschile contro le donne e la violenza di genere per quello che realmente è: un fenomeno solido e sistemico che non basta demonizzare per allontanarlo dalle nostre vite. Prendere coscienza del privilegio è un atto dovuto di fronte al massacro quotidiano che donne e persone LGBTQIA+ vivono. A chi continua a pensare che la cosa non lo riguardi, chi continua a trovare la propria affermazione nell'oppressione degli altri generi, a chi non ha il coraggio di guardare la realtà dalla propria posizione di privilegio e rinunciare a questo privilegio per sostenere una lotta di libertà e autodeterminazione, diciamo che è complice di ogni donna ammazzata, di ogni soggettività non conforme e stuprata, di un uomo che ritiene di poter agire in violenza telematica, per calling, stalking, violenza fisica, economica, psicologica, sessuale. Non è sufficiente scendere in piazza con noi, il contrasto al patriarcato lo si porta avanti tutti i giorni. Se non te ne curi, il violatore eres tu! On the 15th of April, war broke out in Sudan, with over 11 million displaced and 13,000 fatalities. Obviously, these numbers are just estimated, and the real numbers are way higher than this. Sudan is only mentioned as a footnote. Not surprising, because we know Black Death is the norm and is of no concern. Another reason that the war in Sudan has been overlooked is because it's considered an internal conflict, forgetting the fact that it's a proxy war. The two powers fighting right now, the RSF, are backed by the United Arab Emirates, Russia, and Israel, among others. The Sudanese army is supported by Saudi Arabia, Egypt, Ukraine, Iran, and also in this case, Israel. When we're fighting for women's freedom, when we're fighting for women's liberation, we cannot pick and choose who gets and who deserves that liberation. When we talk about women's liberation, we talk about a Sudan without a war. We talk about a Palestine that is no longer occupied. An intersectional feminist collective, a Sudanese intersectional feminist collective called Noon, have asked me to stay here today and present to you the speech that they want to send from Sudan to the women of the world. I feel the weight of all women. Around my hand, a woman's bracelet softly rests. I smell their fear on my clothes. I make coffee, but I drink their tears. I do not sleep. We share nightmares. I lost my ability to speak. I only scream now. I wish I died before the war. Our revolution is now under rubble. Our revolution used to be on the streets. But now you can find it in cemeteries, in the camps where walls are mother's clothes. You can find it in a long exodus road that ends at the sea, where some die from pain. Amidst the echoes of our independence, we stand shackled by the shadow of our own kin's occupation. They rape us because we are not from the same tribe. They do not mind killing, raping, and displacing our children. They do not mind killing, raping, and displacing their children. The earth squeezed tighter than the gun's cold bore, leaving behind only weapons, nothing more. We reach for the sky and fear the flames. We huddle together in homes and fear looting. We tread the wall's edge, dodging bullets' flight on an endless journey. All we remember is that life stopped on a Saturday. From Sudan to a world that chose to turn away from its suffering, nearly a year after the outbreak of the April 15th conflict, a year burdened with milestones that ground the country down and tore it apart. It was a year that stretched longer than eternity, a period during which we found ourselves shifting roles from victims to perpetrators, and then to lifeless casualties in a relentless war for absolute power. Our lands transformed into battlegrounds for proxy ambitions. Yet amidst the chaos, we anguish in neglect, receiving little to no global attention and aid. The world's conscience weighed heavy with tragedies and conflict, yet its parliaments failed to act beyond condemning and turning away the growing numbers of refugees, fleeing war, poverty, and exploitation. It was a year where hope, land, and sustenance were stolen from us, a year that robbed us of our children's future. Approaching an international day dedicated to rights that are far from universal, and on International Women's Day, we amplify the voices of women who dare to envision freedom, democracy, and peace in places where such ideals struggle to take root. Amidst the constraints of family, society, and political exclusion, we cling to hope, for a brighter dawn. For ourselves and our people, yet in the shadows we endure the harrowing toll of violence, murder, abduction, rape, while serving food to both civilians and soldiers. Our voices silence, our throats still under unfounded accusations of espionage. In the depths of night, we archive our nightmares, scourge for coins to purchase contraceptives, shed silent tears when alone as our mothers adorn our hands with henna's crimson hue in a desperate bid to deceive our rapists into believing we are married. We find solace and strength within the solidarity of women comrades in Congo, Gaza, Western Sahara, Yemen, Syria, and Libya. United by shared experiences of colonial dehumanization and oppression, in the midst of this systematic war to eradicate our revolution, silencing our queer feminist voices, our utmost demand becomes a ceasefire, even at the cost of yielding to the dictates of the barraging imperial regime. Amidst systematic starvation, we are terrified of losing more comrades in the midst of a war and cheers for taking up arms and militarizing our peace. In the midst of all these shackles, we Sudanese women have never been silent and will never be silent. We hate March 8th. We hate the noise of false celebration. We hate the claim of imperialist capitalism to empower women. We only survive through our solidarity and our sisterhood and the path of internationalist revolutionary struggle. We reject war. We reject militarization. We refuse armament. We reject March 8th. Ringraziamo la voce delle compagne dal Sudan che ci ricorda che dal 15 aprile il Sudan è un campo di battaglia in cui di nuovo i corpi delle donne vengono stuprati in mezzo a una guerra che si fa sempre più feroce per interessi di altri. Anche in mezzo alla guerra ci ricordano che le celebrazioni dell'8 marzo non possono essere celebrazioni vuote, ma nutrite della solidarietà internazionale tra compagne, anticoloniale, nutrita dalla lotta delle oppressioni che sappia farsi rivoluzione. Thank you. partire dai nostri cuori, tutti i cuori. Siamo pugili dissidenti da uno sport machista, competitivo e autoritario. Anche per questo facciamo parte del comitato Insostenibili Olimpiadi, che si oppone alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno in questa città nel 2026, ma i cui effetti devastanti si stanno vedendo già nella nostra città e nelle nostre montagne. Ci spingono fuori dai nostri quartieri, abbattono i nostri alberi. Le Olimpiadi sono praticamente l'opposto di come noi e molte altre palestre popolari pensiamo e pratichiamo lo sport. Siamo antifascisti e ci opponiamo all'autorità imposta nello sport, nella città e nelle montagne e alla ventata securitaria che già ci sta investendo. Vogliamo sentirci liberi di tornare a casa da soli, ma non vogliamo l'esercito per strada. Siamo anticapitalisti e ci opponiamo allo sport dei grandi eventi, che porta a sfruttamento e privatizzazione degli spazi che dovrebbero essere di tutti. Sempre di più in questa città gli impianti sportivi comunali vengono chiusi, appaltati, sostituiti da palestre aperte 24 ore su 24, che sono catene di montaggio per corpi tonici, perfetti, performanti, pronti a produrre schiere di Barbie Pilates e Ken CrossFit. Identifichiamo il nostro benessere nel movimento improduttivo di un corpo libero e non nella rincorsa neoliberista alla produttività. Siamo transfemministe e ci opponiamo allo sfruttamento dei corpi delle lavoratrici dello sport, alla sessualizzazione dei corpi, delle atlete e al binarismo imposto dalle federazioni. Oggi sciopera, domani allenati popolare. Allerta! Allerta! Allerta! Allerta! Allerta che cammina! Lotta transfemminista dalla sera alla mattina! Che tremi! Che tremi! Che tremi ogni machista! Oggi Milano è transfemminista! Negra chiquita, ay mamacita, negra divina, negra chiquita, negra bonita. Passiamo di fianco a un altro degli ennesimi cantieri che trasformano la nostra città, rendendo gli spazi pubblici sempre più privati, in nome di un decoro che si nutre anche della strumentalizzazione dei nostri corpi, della pretesa quando invece la città di Milano continua a espellere persone trasformandosi sempre di più in una vetrina inattraversabile, inavvicinabile. Anche per questo il nostro corteo vuole riprendersi le strade del centro della città, ricordando che le strade sicure le fanno le donne, le soggettività LGBTQIA+ che le attraversano, e che non abbiamo bisogno di più polizia, perché di me si prendono cura le mie amiche, non la polizia. Noi siamo proteste, scioperi, manifestazioni. Questa è la migliore risposta che possiamo dare a questo maledetto governo che ci vuole schiacciare, che vuole che facciamo figli su figli, mentre licenzia le donne, vuole braccia fresche per i padroni e per la guerra. Sta alimentando con il fascismo un moderno patriarcalismo. Non si tratta di vecchi uomini, si tratta di uomini nuovi che odiano le donne quando vogliono rompere i legami, quando vogliono scegliere da sé. Noi oggi siamo anche con il cuore e con la mente con le donne palestinesi, le donne palestinesi massacrate che vedono i loro figli morire sotto le bombe per la fame e la sete. Queste donne stanno trasformando il loro dolore in forza, in resistenza, che quel mostro di Netanyahu nazista venga, subisca tutte le lacrime, paghi le lacrime e il sangue delle migliaia di donne palestinesi. Oggi però voglio ricordare, e sono con noi al nostro fianco, anche se ci hanno lasciato, alcune compagne che sono morte per questo sistema marcio e malato. La compagna Rosa, di non una di meno di Milano. La compagna Concetta, dell'MFPR di Taranto. La compagna Anna di Amazzora, di Bologna. Queste non moriranno, vivranno con noi nella notte. Viva l'8 marzo! Viva! Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Siamo reduci dal 2023 in cui abbiamo registrato 120 persone uccise dal patriarcato. L'Osservatorio Nazionale di Numero di Meno ha rilevato che sono in aumento i femminicidi tra i 40 e i 60 anni e si sono registrati casi oltre gli 80, di cui la stampa non parla, dando voce solo a femminicidi di giovani donne, facendo pornografia del dolore, romanticizzando il rapporto con l'assassino, mostrandoci ossessivamente le loro foto. Non possiamo non denunciare le vergognose strumentalizzazioni della destra nei casi di femminicidio di persone gestanti, per portare avanti le loro campagne provvita, volte solo al controllo dei corpi per il delirio nazionalista e razzista nell'escludere le altre etnie e figlio italiano di prima generazione. Sono aumentati i casi di persone disabilizzate uccise da uomini incapaci di gestire il loro ruolo di cura. Dall'inizio del 2024 sono già 19 femminicidi, almeno altri 7 i tentativi di femminicidio. Un femminicidio ogni 3 giorni. La società facilmente si indigna quando sono rispettati i canoni di vittima perfetta. Noi siamo qui a dire che ogni violenza patriarcale ci indigna allo stesso modo. Pretendiamo di restare vivo e libero. I percorsi di autonomia e liberazione sono colpiti violentemente da questo governo fascista e integralista cattolico, che forgia il sistema familistico e capitalista così che si riproduca senza possibilità di cambiamento. Mentre noi subiamo violenza nelle nostre case, nelle strade, nei posti di lavoro, ci si preoccupa della teoria gender del tutto inventata e spacciata come pericolo per un nostro bambino, mentre è solo omo, lesbo, bi, trasfobia che continua a invisibilizzare le persone queer. Intanto noi ci domandiamo chi si prende cura di bambino, ma soprattutto chi difende bambino queer. Ribadiamo il diritto all'autodeterminazione, l'importanza di avere le carriere alias nelle scuole. Le persone trans subiscono la violenza eterocis-patriarcale fin da bambino. Nel 2023 sono 320 le persone trans uccise nel mondo, spesso nell'immaginario collettivo sono solo sex workers. Non una di meno ribadisce che sex work is a work, che discriminazioni e puttanocidi non sono più accettabili, come non è più accettabile che non venga tutelato il diritto all'autodeterminazione. Alle persone transgender non è concesso neanche di avere spazi di rielaborazione e riprogettazione a seguito di violenze. Sono relegato a sportelli di ascolto perché la violenza sui loro corpi è normalizzata. Viviamo in una società eterocis normata e il primo luogo di non accettazione di un diverso orientamento sessuale o identità di genere è ancora la famiglia. La donna che non rispecchia ciò che la società che chiede è punita. Le violenze sessuali sono registrate maggiormente tra persone bisessuali. Ci sono stati noti fatti di cronaca di stupri e uccisioni dopo coming out. Essere froce, che rivendichiamo con fierezza, è ancora motivo di imbarazzo per le nostre famiglie. Meglio un figlio morto che frocia, una frase che conosciamo molto bene. Veniamo ucciso perché razzializzato, lesbico, trans, sex workers. Veniamo ucciso davanti a figli minori, rendendoli orfani. Perciò vogliamo un reddito di autodeterminazione per permetterci di uscire da situazioni di violenza, da relazioni abusanti, per salvarci la vita. Vogliamo che venga valorizzata la loro professionalità, vogliamo contarci vivi per fare delle nostre vite ciò che desideriamo. I dati sulla violenza sessuale non sono attendibili, in quanto secondo le ultime stime vengono denunciati solo il 10% degli stupri. Nel 2023 ne sono stati registrati ufficialmente 54, di cui 8 su minoro. Eppure il 6 febbraio 2024 il Consiglio europeo non ha raggiunto un accordo sulla definizione di stupro come sesso senza consenso. Lo stupro che noi subiamo non è riconosciuto come reato a livello europeo e le vittime ancora oggi devono dimostrare di aver subito violenza. La violenza spesso avviene nei luoghi che dovrebbero essere sicuri e silente tra le mura di casa, nei locali che frequentiamo, nelle strade, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. L'Italia è nota per sentenze su stupri che contengono affermazioni sessiste e la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per sentenze che infliggevano vittimizzazione secondaria e violenza istituzionale. Ancora oggi, nel 2024, si danno giudizi su chi denuncia una violenza sessuale. Nell'immaginario collettivo lo vittimo perfetto ha gridato, non era ubriaco, si veste e si comporta in maniera convenzionale, si giudica la sua identità di genere, il suo orientamento, se si trovava nel posto perché doveva e non per piacere, cavoli, cazzo. Insieme si è aperti il cammino, si vuole cavare il raggio. Quando cruza la quebrada, la cola no se le dobla y corre sobre de. coraggio dei nostri corpi, siamo marea, andiamo ovunque, tutte le strade ci appartengono perché la nostra libertà non può conoscere confini neanche interni agli spazi della nostra città. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno. No!

decidere chi è più meritevole di accoglienza, chi ha più diritto all'asilo politico. Noi come società abbiamo un solo dovere, quello di non voltarci dall'altra parte, ma di continuare a pretendere che porti e confini rimangano aperti per tutti. La migrazione è un fenomeno umano, non è un'emergenza, non è una novità. Come tale dobbiamo pretendere che venga gestita, come tale dobbiamo pretendere che venga garantita. Un anno fa, steccato di Cutro, hanno perso la vita 90 persone. Dopo un anno da questa tragedia si sono susseguite troppe morti in mare e lungo tutte le rotte migratorie. Il governo attuale cosa fa? Emana decreti che limitano il nostro lavoro in mare e i diritti di chi arriva. La lotta per la fuoriuscita dalla violenza patriarcale passa necessariamente anche nella garanzia e nella tutela della libera circolazione. Questo governo ci vuole bloccare, ci vuole limitare, prova a farci passare per trafficanti di esseri umani. Ma le alleanze e la lotta fianco a fianco ci danno la forza per continuare ad andare avanti e aiutare chiunque cerchi di arrivare in Italia. Buon vento e che nessuno venga lasciato indietro. Mutualistiche, contro la violenza agita da chi ci rappresenta al governo e nelle istituzioni, anche attraverso un vergognoso linguaggio sessista, razzista e transfobico come quello recentemente utilizzato dal consigliere Piscina per parlare delle persone trans. La nostra lotta è collettiva e intersezionale, da sempre al fianco delle nostre sorelle palestinesi che da mesi vivono e combattono sotto il fuoco israeliano. Dalle sorelle curde del Rojava, dalle studentesse manganellate nelle piazze, dalle antifasciste che cacciano i razzisti dei quartieri. Contro tutto questo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. We'll be right back. che ci godiamo di essere arrivate in Piazza Duomo e di riprenderci. No. Intanto. Vogliamo provare a oh, oh, oh, oh, prova, prova, prova. Oh, oh, oh. Intanto che ci godiamo Piazza Duomo e che proiettiamo sulle mura bellissime di questa piazza Stop al genocidio, vi ricordiamo che la lotta paga moltissimo ma costa altrettanto. Venite a prendere delle birre e dei panuelos al camion. Oggi, 8 marzo, siamo di nuovo qui tutte insieme in piazza, perché solo da qui, dall'unione dei nostri corpi, delle nostre teste, che può partire un cambiamento reale. Siamo qui perché vogliamo che tutto cambi. Siamo qui per dire basta al sistema di oppressione patriarcale. Siamo qui per dire basta all'oppressione sociale. Disertiamo, disertiamo tutte le guerre e disertiamo tutti gli eserciti. Disertiamo gli stati che ogni anno accrescono le spese militari mentre svendono scuola, cultura, ambiente, sanità e sicurezza sul lavoro. Disertiamo i programmi educativi patriarcali e bigotti. Disertiamo i tribunali per i quali la colpa è sempre la nostra, dei nostri vestiti o del nostro silenzio. Disertiamo le forze dell'ordine, la loro violenta repressione. Disertiamo tutte le chiese e chiunque voglia decidere sui nostri corpi. Disertiamo le multinazionali, il sistema economico capitalista che opprime e distrugge corpi e territori e nega crisi climatica o cerca di guadagnarci. Disertiamo il patriarcato, il braccio armato dello Stato. Ricordiamoci che le oppressioni sono tutte interconnesse. Militarismo, razzismo, capitalismo, sessismo sono facce della stessa oppressione. Saremo libere solo se tesseremo nuove relazioni orizzontali, solo se distruggeremo ogni forma di potere e di dominio sui nostri corpi, sull'ambiente, sugli animali, umani e non. Ripensiamo a un futuro radicalmente altro da quello che stiamo vivendo. Riconosciamo la dignità delle vite, l'autodeterminazione del proprio corpo, qualunque esso sia, contro ogni gerarchia e oppressione, per l'autodeterminazione e per la libertà, né chiese, né stato, né patriarcato. Ma quale stato? Ma quale Dio? Sul mio corpo decido io. Buonasera sorelle, sono un'attivista di Fridays for Future Milano e anche questa volta siamo scese in piazza insieme a non una di meno per dimostrare quanto la crisi climatica sia legata al patriarcato e quanto il patriarcato sia alla base della crisi climatica. Perché ciò che si basa sullo sfruttamento non può che venire da un sistema di sfruttamento come quello che è il patriarcato. La scienza dice di continuo che la crisi climatica viene anche dal patriarcato, che viene esacerbata dalla disuguaglianza e che soprattutto si può risolvere investendo nell'uguaglianza di genere. E questo è solo quello che dice la scienza. Poi noi sappiamo benissimo che laddove c'è sfruttamento dei territori c'è anche sfruttamento dei corpi e viceversa. Noi siamo rase, siamo stanche, siamo piene di dover gestire sia la crisi climatica, sia la nostra insicurezza, sia la disuguaglianza. Siamo stanche di dover fare lavoro di cura nei movimenti e lavoro di cura nel mondo, quando il mondo sta praticamente bruciando. Noi ci dobbiamo trovare anche insicure per strada, nelle nostre strade, nelle nostre case. E vogliamo che la lotta diventi collettiva, che si lotti per il clima, che si lotti contro il patriarcato, che tutto sia un'unica lotta, che l'intersezionalità non sia solo una parola ma diventi verità. Vogliamo che la politica si renda conto che senza lotta per il genere e lotta contro il patriarcato non si risolverà la crisi climatica, e vogliamo che nei nostri movimenti le persone, le soggettività marginalizzate siano messe al centro e siano l'unità di misura di quello che è l'attivismo, e vogliamo i molestatori fuori dai movimenti, vogliamo i molestatori fuori dalle piazze, perché se non siamo sicure nei nostri movimenti non lotteremo mai in modo efficace, e queste due cose vanno di pari passo. Quindi vi invitiamo il 19 aprile al nostro sciopero per il clima, per portare delle rivendicazioni che siano transfemministe e intersezionali, e per far sì che non si fermi all'8 marzo, perché si lotta tutto l'anno. Grazie. Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Mi ha afferrato la guancia strattonandomi per dirmi quanto fossi bella. Mi sono rifiutata di cenare con il professore e mi ha minacciato di bocciarmi all'esame. In tirocinio il medico si riferisce a me chiamandomi bambolina. Ogni volta dopo lezione vengo pedinata fino al bagno in metropolitana. Queste sono alcune frasi che ci hanno scritto delle studentesse quando abbiamo chiesto se avessero subito violenza in università. All'interno della statale di Milano, l'82% delle persone che hanno subito violenza e che ha chiesto aiuto non ha ricevuto risposta. Il 13% ha subito una forma di violenza. Ci dite di stare zitte! Ci dite che è sempre stato così, ci dite di far finta di niente, ci minacciate di denuncia, ci dite che non potremo mai laurearci se urleremo la verità. Oggi siamo in piazza per urlare la verità e per difendere e sostenere tutte le sorelle che chiedono aiuto e non vengono credute e non vengono ascoltate. Oggi siamo in piazza per urlare che siamo stanche di subire sui nostri corpi, sulle nostre scelte, sulle nostre vite, le violenze indisturbate del potere patriarcale. Pretendiamo di studiare, di costruire il nostro futuro ed esprimerci all'interno degli spazi sicuri e tutelanti in cui le nostre identità non vengano strumentalizzate e sessualizzate. Pretendiamo centri antiviolenza transfemministi in tutte le università e scuole. Pretendiamo che la violenza patriarcale venga affrontata, decostruita ed eliminata nelle sue matrici culturali e gerarchiche in cui si manifesta. I luoghi del sapere devono produrre cambiamento e rifiutiamo le narrazioni accademiche che propongono un'idea fuorviante e discriminatoria del mondo, che partono dalla focalizzazione dell'uomo bianco, colonialista, benestante, capitalista, e che si autolegittima come unico punto di vista valido. Vogliamo decolonizzare i saperi e rivendichiamo la violenza storica delle soggettività discriminate. Le voci subalterne non devono essere ascoltate, ma devono occupare lo stesso posto delle voci dominanti. Per diventare complici e alleate è necessario cambiare in maniera radicale le modalità di produzione, diffusione e trasmissione del sapere. Come rete della conoscenza, LINK, UDS, siamo in piazza con le sorelle di NUDM, perché crediamo che partendo dai luoghi della formazione si possano creare spazi di contrasto alla violenza patriarcale per una trasformazione. trasformazione radicale della società in chiave transfemminista e una riappropriazione dei saperi che storicamente ci è stata privata. Vogliamo una scuola, un'università sicura per essere libere di autodeterminarci e avere gli strumenti del cambiamento. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una di meno. Ma siamo partite, insieme torneremo, non una. E mentre ci godiamo Piazza Duomo, non vi dimenticate che l'8 marzo non finisce finché non è finito. Alle 23 la festa continua a ZAM, perché la nostra rivoluzione si fa a passo di danza. Lì troverete ancora un sacco di panuelos, DJ transfemministe, cibo, qualcosa da bere, un sacco di compagne, pochissimi macisti, perché niente purtroppo non lo possiamo assicurare, e continueremo a godere insieme della nostra socialità ritrovata. Oggi anche noi di lato B siamo in piazza con non una di meno Milano per dire che le città in cui viviamo non sono costruite a misura dei nostri corpi. Tutto il mondo in cui viviamo non è costruito a misura dei nostri corpi. Abbiamo passato le nostre vite a sentirci dire che il problema siamo noi. Troppo deboli, troppo lente, troppo svestite, troppo lunatiche, troppo paranoiche, troppo isteriche. Ma non è così. Siamo stanche di vivere in un mondo progettato a misura di maschio bianco, etero, cis e ricco. Siamo stanche di vivere in una città che non ci fa sentire sicure quando andiamo in giro. La nostra presenza fuori di casa non è prevista. Ecco che cosa ci aspetta quando usciamo, chiavi strette nel pugno, paura. Viviamo in un sistema che ci vuole chiuse in casa. Siamo stanche di vedere una città che si svuota, priva di presidi sociali, che vengono chiusi con la scusa del decoro. Siamo stanche di vedere più macchine che pedoni, biciclette e carrozzine. Siamo stanchi dei quartieri dormitorio e delle periferie usate come terreno di scontro elettorale, senza nessun investimento. Siamo stanchi della mancanza di servizi che sostengono chi deve fare il lavoro di cura non retribuito. Siamo stanchi di vedere le vie, le piazze e i monumenti dedicati solo a maschi, che raccontano storie di patriarcato, colonialismo e di chiesa. Siamo stanchi dei costi della vita così elevati, lavori così precari e welfare inesistente, per cui è impossibile autodeterminarsi. Le città e gli spazi che viviamo sono campi di battaglia. Le scelte che si fanno nel progettarli sono scelte politiche e vogliamo prenderci lo spazio che non ci è mai stato dato. Vogliamo una città transfemminista a misura di tutti noi. Una città transfemminista è una comunità, uno spazio condiviso, uno spazio sicuro, costruito non con la polizia e con l'esercito nelle strade, ma fatto dalle persone che le abitano, dalle sorelle che le abitano. La sconfitta del patriarcato passa anche da questo, dalla costruzione di un mondo diverso.